Ottimo lavoro. Le anguille si sono disperse. Ora, ultimo passaggio, druido. Lancia la chiave al mago un'ultima volta. Trascina il dito sullo schermo.